Abbiamo deciso di partecipare come studenti e organizzare una manifestazione nostra per autorappresentarci, far vedere anche che anche chi non scende di solito in piazza oggi c'era, infatti siamo stati felici dell'affluenza. Il tema che volevamo trattare era quello della maturità, non solo per quest'anno ma anche in vista delle prossime maturità degli anni futuri, che dopo il cambio drastico che ha avuto la scuola negli ultimi 3 anni, obbligata da quella che era la situazione in tutto il mondo, è stata decisa di essere ripristinata bene o male come era prima dell'arrivo della pandemia, che già è un'affermazione fallace perché prima della pandemia continuavano già a cambiarle, mostrava già delle criticità, e negli ultimi 2 anni avevano fatto delle prove di maturità sostanzialmente molto diverse, e da qui però secondo me bisognava prendere e imparare più che tornare indietro, perché se tutto quello di positivo che siamo riusciti a prendere da un periodo come quello che sta, speriamo, tutti passando, lo prendiamo e lo buttiamo via, sprechiamo questi 2 anni, che ad esempio a livello della scuola hanno portato a una grossa innovazione tecnologica, l'arrivo del digitale, seppur di prepotenza a causa della pandemia, ha comunque portato uno sviluppo che sarebbe stato inevitabile nella scuola, magari in tempi più lunghi, però non possiamo tornare indietro semplicemente per la pigrizia di chi non è pronto a strutturare un esame per rappresentare la scuola nel 2022. E siamo qui per spingere il ministro a non accontentarsi di queste cure palliative che sono le sue ultime affermazioni, le sue ultime correzioni, che noi vediamo più che altro come un tappare i buchi quando ci sono tutte le possibilità per ripensare in modo più funzionale questa maturità. Non siamo per niente contenti di quella che io chiamo la newsletter di Bianchi, la sua idea del ascoltare tutti, perché ci sta ascoltare tutti, ma il discorso facciamo è chiaro e non ci basta essere semplicemente ascoltati se quelle cose che diciamo non vengono effettivamente prese in considerazione. Siamo tutti scesi in piazza, hanno partecipato più di 19 scuole della provincia di Bologna. Nonostante già il 4 ci fosse stata la giornata nazionale indetta, noi abbiamo pensato che non potesse fare male tornare in piazza anche questo venerdì, perché il problema va risolto in fretta. Abbiamo già aspettato tanto per sapere quale sarebbe stato il nostro futuro e siamo ancora speranzosi che si possa cambiare, perché ci troviamo in una situazione in cui le seconde prove dell'esame non rispecchiano per niente quelli che sono stati i nostri percorsi scolastici. Io faccio un liceo artistico, quindi la parte laboratoriale è stata fortemente intaccata in questi ultimi 3 anni, e trovare a rifare delle prove che non rispecchiano per nulla quello che io ho fatto in questi 3 anni mi sembra assurdo e scorretto. E soprattutto ci siamo stati trattati come i pigri, perché non vogliamo fare questo, vogliamo soltanto starcene nella bambagia. Invece mi sembra che quelli che hanno preso delle decisioni da pigri siano stati il ministero e nella figura del ministro Bianchi. Siamo felici di notare che non soltanto noi studenti abbiamo delle problematiche con questa maturità attuale, ma anche oltre al corpo docenti e ai presidi delle varie scuole, lo stesso Consiglio Superiore dell'Istruzione ha detto che c'è qualcosa che non funziona in questa bozza di maturità. Eppure Bianchi sì, mentre dei cerottini da qua e di là, ma questo porterà semplicemente l'anno prossimo nella stessa identica situazione, perché sì, ritorna alla normalità ma non tornare indietro. E avete delle idee di maturità, dei modelli che potete pensare di proporre, che vi incuriosiscono, che vi interessano? Sfruttando la maturità d'emergenza, chiamiamola, degli anni scorsi, che si sviluppava con un unico esame, quello chiamato il maxi orale, che però spesso avalla il fatto che comunque ci fosse nell'anno scorso una relazione scritta da presentare prima dell'orale, quindi la parte scritta non è completamente abbandonata. Semplicemente la gestione come unica prova, uno, lo rende un coronamento degli studi, secondo me molto più significativo rispetto a una sfilza di semiverifiche che hanno un fine puramente accademico, perché le strutture delle prove, per come sono strutturate adesso, non ti aiutano a capire quello che tu dovrai fare con quello che hai appreso a scuola nel futuro. Mentre un elaborato, oltre che appunto di per sé aiutarti alle tue espositive e quindi ad argomentare, ti unisce a collegare argomenti che non riguardano il programma scolastico, che non escono dai libri ma escono da quello che viviamo tutti i giorni, a quello che tu hai preso nei 5 anni, che è molto più simile a quello che noi faremo in futuro usciti dalla vita accademica, che sia dopo l'università o che sia semplicemente dopo il liceo. Chiarissimo, una domanda sulle dinamiche di piazza. In quest'ultimo mese si sono viste molte proteste studentesche in giro per l'Italia, finite con scontri, con violenze da parte della polizia. Com'è il clima qua a Bologna? Ci sono stati momenti di tensione, problemi oppure sereno? Allora, noi abbiamo deciso appunto di prenderci la nostra data e andando un po' più avanti appunto oltre al 4 per riuscire a organizzarla bene. In realtà, per la mia esperienza in questa manifestazione, il rapporto con la polizia è stato pacifico, il rapporto con le forze dell'ordine è stato pacifico, ci siamo confrontati e abbiamo mandato tutti i preavvisi, tutte le cose. Più volte, anche stamattina prima della manifestazione, mi sono interfacciato con gli organi referenti, mi hanno tutti dato appoggio, stati tranquilli, e infatti devo dire che è andata molto bene, non abbiamo avuto particolari problemi. Sappiamo che però le situazioni non sono sempre queste. La testimonianza che posso fare io di oggi è che è stata una bella manifestazione e soprattutto non abbiamo dovuto cedere il passo rispetto ai nostri argomenti per affrontare situazioni più drammatiche legate agli scontri.